11:14 con il consueto ritardo inizia una nuova puntata di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un buongiorno a tutti voi che siete in ascolto da Francesca. E un buongiorno a tutti e tutte anche da Eddie. Vi ricordiamo come sempre i contatti per scriverci nel corso della trasmissione. Per gli sms, cisti e altre segnalazioni potete scrivere al 346-667-3263 e per il telefono fisso potete chiamare lo 011-249-5669. Bene, ora andiamo ancora avanti con un po' di musica mentre cominciamo a preparare la puntata che andiamo a presentare tra poco. Allora 11:16 andiamo a presentarvi la puntata per questo martedì 29 aprile. Inizieremo con un po' di rassegna stampa andando a commentare alcuni articoli usciti in questi giorni e anche quello che si muove attorno alla questione del Job Act, su cui abbiamo insomma già preso parola diverse volte qui anche a Radio Blackout. Ci sono stati appunto alcuni avanzamenti del decreto in questi ultimi giorni, quindi andremo anche un po' a commentare questo. E sempre un po' nel commento di che cosa accade andremo a fare un po' un approfondimento sugli ultimi tagli che sono stati fatti al fondo per gli Atenei, mettendoli anche un po' in relazione con nuove forme di sostentamento dell'università che vanno a farsi strada, a prendere concretezza e nascere, nello specifico la prima fondazione universitaria di fundraising per chi volesse vedere con i propri occhi www.ricercaitalenti.it, che parte proprio dall'Università di Torino. Quindi diciamo quel che con una mano si disfa, con l'altra poi si rifà e si ristruttura. E per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti, andremo a presentarvi Metropolis, l'iniziativa che si tiene oggi e domani a Palazzo Nuovo in vista del 1° maggio, insomma questo per quanto riguarda Torino. Si preparano altre date, una è quella invece poi del 10 col corteo Notav, iniziamo a parlarne già da questa settimana facendo una prima diretta, poi ci sarà modo insomma di approfondire la questione anche nella puntata della prossima settimana. Bene, per qualunque cosa, qualunque intervento, qualunque commento, qualunque suggerimento sia di contenuto ma anche e soprattutto musicale, ricordiamo ancora una volta al 346-6673-263, andiamo avanti con un po' di musica e poi entriamo nel vivo di un'altra puntata di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Derramar mi poesía sobre una instrumental, rebelde perenne, mi pulsa son las mujeres, llevo en Rocío Alba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rebajo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaba? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas, que era yo, voy recitando las banquetas, saquetas contra la inteligencia en los años 80. Que no sirve para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Pues el propio no escribo cosas que la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que el caimán. Todas las noches bajo echando el puro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Tío que va cortando prejuicios de su rumbo. Ajá, ajá. Rebeca Domain. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Más amar como si fueras tu mi propiedad. Ya entendí, no quiero compartir. Lo que yo menos quiero es hacerlo sufrir. En esta parte del camino nuestras miradas cruzamos. No por ello ayuda ni lloré en mi mano ni te castro. Si me caso será solamente con mis ideales irreales, las promesas para siempre irreales. Lo que yo tengo para ti, mi capullito de alegría, es una flor, una canción de amor sin pretensión de robarme tu corazón. Ese es tuyo amor, no quiero amarrarlo. Lo que te quiero decir es que estoy bien así. No quiero que vengas a cumplir ningún rol ni condición. Poner sobre esta flor natural como el sol, haciendo retoñar semillas del suelo. Te acepto tal y como sos, hay días buenos, otros no, pero te tengo tal respeto que no es tu obligación levantarme de los escombros. Yo me escondo, resucito con sonrisas en el rostro. Tal vez te sorprendes, ya tienes soñarme como si me amaras. Sientes que no puedes dejarme, pero ya mañana será otro día y una nueva decisión para improvisar en esta travesía. Es mejor volar y caer al suelo que vivir soñando con saborear el cielo. Que soy poesía, mi único resuelo. Muestra este compromiso, más yo no le guardo duelo. Duerte cuando quieras, yo no voy a impedirlo. Aunque te quema mi lado, por siempre va a negarlo. Pero si mi gente son el corazón. Ci segnalano vigili con autovelox vicino al ponte di Sassi in via Agudio, quindi per chi fosse nei paraggi cisti ringraziamo l'ascoltatore barra ascoltatrice per la segnalazione. Mandiamo anche un saluto a Ilaria che ci sta ascoltando e che ha contribuito anche alla scelta musicale della puntata di quest'oggi. Yo te amo y tú también, pues no te líes, mejor sonríe y cargamos el carpe diem. Sueña, escribe, canta, baila, vive, cree, gana, inténtale, aprende y haz que tu alma vibre. Perdona, juega, piensa, olvida, recuerda, ama y sonríe, pero sobre todo sigue siendo libre. Tal vez te sorprendes, ya tiendes a odiarme como si me amaras. Sientes que no puedes dejarme, pero ya mañana será otro día y una nueva decisión para improvisar en esta travesía. Tal vez te sorprendes, ya tiendes a odiarme como si me amaras. Sientes que no puedes dejarme, pero ya mañana será otro día. Para improvisar en esta travesía. Ah, haciendo. Allora, 11:25, cominciamo ad entrare un po' nel vivo della puntata. Lo facciamo parlando del Job Act, uno dei pilastri dei primi provvedimenti del governo Renzi, su cui si è fatto un gran parlare. Interessa anche noi appunto approfondire la questione, l'abbiamo anche già fatto, non solo in vista di questo primo maggio, ma soprattutto in vista del vertice sull'occupazione giovanile europeo che ci sarà a luglio qua a Torino, quindi insomma vogliamo attrezzarci anche in questo senso per essere insomma preparati a contrastare tutte le retoriche del governo Renzi. E proprio il Job Act è approdato in Parlamento la scorsa settimana, dove ha ottenuto un prima via libera da parte della Camera che insomma l'ha approvato a grande maggioranza. Il decreto lavoro ha subito delle modifiche, ma davvero irrisorie rispetto a quello che è l'impianto generale del Job Act. Nello specifico è stato ridotto il numero di rinnovi del contratto a termine possibile, che nel testo originale erano 8, sono diventati 5, ed è stata modificata poi anche la questione della formazione per gli apprendisti. Però appunto nel suo impianto generale il decreto rimane sostanzialmente invariato, e appunto punta questa incremento generale della precarietà. C'è stato insomma qualche rumoreggio di facciata da parte di alcuni partiti, in particolare Scelta Civica e il Nuovo Centrodestra, ma di fatto appunto un primo via libera è stato dato. In questa settimana dovrà passare anche al Senato, e i tempi insomma non sono così larghi, perché per il governo Renzi si tratta di convertire il tutto in legge entro il 19 di maggio, quindi insomma c'è da aspettarsi che i prossimi passaggi saranno abbastanza celeri e che verranno fatti come al solito a colpi di voto di fiducia, per appunto evitare qualsiasi ostacolo al percorso di questa legge. Sì, di interessante riguardo a questo processo nello specifico non è uscito ancora nulla di particolare, se non delle simpaticissime dichiarazioni, oltre ovviamente quelle di Renzi, si vanno a sommare quelle di Maurizio Sacconi, l'ex ministro del lavoro nel governo Berlusconi e attualmente presidente dei senatori del Nuovo Centrodestra. In un'intervista appunto dopo la fiducia alla Camera, come diceva Francesca, il provvedimento deve passare al Senato, e il presidente dei senatori di NCD si rilascia un'intervista al Corriere della Sera in data lunedì 28 aprile 2014, titolando: decreto dimezzato su contratti apprendisti, il governo tolga i vincoli. Sacconi dichiara che la spinta propulsiva che questo Job Act con cui questo Job Act partiva è stata dimezzata dalle modifiche che sono state attuate, e come abbiamo già detto, rispetto poi alla condizione del lavoro in sé, queste modifiche non incidono poi in maniera sostanziale, perché la ristrutturazione di ammortizzatori sociali continua è invariata, quindi l'eliminazione della cassa integrazione è lo scenario che ci si apre, e comunque il livello di precarietà di chi fa il suo ingresso nel mercato del lavoro, ma anche chi già c'è, non si abbassa minimamente. Anzi, a conferma di questo, vediamo che il discorso su comune un po', perché su quella che è poi l'obiettivo di queste riforme del Job Act, e quale è anche un po' l'ispirazione, rimangono proprio abbastanza univoche, abbastanza a una sola tinta, nonostante questo battibecco. Nello specifico Sacconi parla del lavoro a tempo indeterminato come di una minaccia. Il giornalista chiede nel concreto cosa chiedete a Sacconi e lui risponde: dobbiamo ripristinare il testo iniziale sui contratti, a partire dalle sanzioni. La minaccia di trasformare in tempo indeterminato un contratto a tempo determinato in caso di violazioni inibisce le assunzioni al confine della regola, la cui interpretazione può essere discutibile. Così come, nel caso dell'apprendistato, eliminare il vincolo del 20% degli apprendisti stabilizzati nei 3 anni precedenti è paradossale perché punisce quell'apprendista che potrebbe essere assunto. Insomma, ognuno dice aggiunge il suo piccolo comma, la sua piccola postilla burocratica, però di fatto la sostanza del provvedimento rimane e ancora una volta si tenta di far andare un po' nel fumo quella che poi sono le implicazioni concrete del passaggio di questo disegno legge. Si baccaglia sulla postilla del caso. Sì, nel frattempo arriva l'SMS di un ascoltatore o ascoltatrice che commenta appunto quanto stavamo discutendo e ci scrive, insomma, con un po' una nota di colore: ma cosa ci si poteva aspettare da uno che da sindaco faceva la guerra ai barboni? E poi conclude con un'invocazione di Tosi ministro. E niente, su questa questione del Job Act, proprio perché ci sono stati alcuni appunto aggiornamenti negli ultimi giorni, vi facciamo sentire un audio di qualche giorno fa che è stato curato da Radio Onda d'Urto, che è un'intervista a un professore, un docente di sociologia economica all'Università di Messina, che appunto entra un po' nel merito di questo decreto. Ve lo facciamo ascoltare, poi facciamo un breve stacco musicale prima di passare ai prossimi argomenti. Ancora oggi il ministro dell'economia Padoan ha ribadito che la riforma del lavoro accelera il beneficio in termini di occupazione e di ripresa che nel nostro paese, dice, si sta consolidando. Ci sono invece molti dubbi intorno a questo decreto legge sul lavoro e al Job Act. Lei cosa ne pensa, professore? Ma diciamo che tutta la filosofia del Job Act parte da una vecchia idea, peraltro smentita dalle statistiche, che basta rendere più flessibile il lavoro e quindi la possibilità di licenziare, di prendere oggi un lavoratore e domani mandarlo via senza nessun vincolo, che aumenta l'occupazione. Perché è errato? Perché le imprese in questo momento sono piene di scorte in magazzini, hanno una domanda molto debole, quindi non è che non assumono perché non possono licenziare, non assumono perché non c'è la domanda, è una cosa che capiscono tutti. Non si capisce perché dovrebbe crescere l'occupazione se c'è maggiore facilità di licenziamento. Tra l'altro la Fiat ha licenziato decine di migliaia di lavoratori senza problemi in questi anni, ha chiuso una fabbrica come quella di Termini Merese che aveva 40 anni di storia e non è successo niente, non è... quindi dov'è il problema? Insomma, oggettivamente mi sembra pura demagogia. Se ci sarà una piccola ripresa, perché poi qua sono cifre ridicole, perché si parla 0,6, 0,8 di aumento del PIL, eccetera. Se ci sarà anche una piccola ripresa, perché è normale quando si cade talmente in basso, poi prima o dopo c'è un elemento che succede anche nella vita delle persone. E quindi succede anche nel ciclo economico, ma insomma strutturalmente qua se non si cambiano alcune cose non se ne esce, soprattutto non se ne esce e non si dà una risposta al problema più grande che c'è in questo momento nel nostro paese, che è quello della disoccupazione di massa. Ecco, tra l'altro vuole introdurre ancora più flessibilità, addirittura si parla di 5 possibili rinnovi di contratto a termine nell'arco di 36 mesi, lo prevede infatti questo decreto legge sul lavoro, ma in un paese dove di fatto nell'ultimo periodo l'80% dei nuovi contratti, definiamoli così, sono tutti contratti flessibili a termine? Sì, ma appunto non se ne capisce la razza, insomma anche voler essere buoni e pensare che chi l'ha pensato voleva risolvere un problema, passerà alla storia come un atto che sanzisce la precarietà come una forma normale di relazione fra imprese e lavoratori. Cioè, questo significa. Cioè, perché a questo punto qualunque impresa dice, vabbè, anziché fargli il contratto a tempo indeterminato, per tenere anche il lavoratore sotto pressione, gli faccio quello a 3 anni, questi 36 mesi sono 3 anni, glielo posso rinnovare 5 volte, io quindi per 15 anni tengo una persona sotto, ma dico è anche inutile, secondo me alcune imprese non lo faranno nemmeno, perché tanto se devono licenziare perché motivo ha un'impresa di licenziare un lavoratore dopo che gli lavora 15 anni ed è bravo ed ha acquisito know-how, ci perde, quindi non proprio, con qualunque sforzo mentale si possa fare, non se ne capisce l'utilità e probabilmente proprio è una questione puramente ideologica e risponde alla necessità, d'altra parte anche questo incarico alla Marcegaglia in una struttura pubblica, una presidente, ex presidente appena uscente da Confindustria, gli dai un incarico, un'impresa pubblica a partecipazione statale così importante, ma c'è un conflitto di interessi evidente. Cioè, c'è proprio una cosa ormai insostenibile. Purtroppo tutto si gioca non sull'analisi vera dei problemi, ma sulla capacità mediatica di colpire l'immaginario della gente. Cioè, quindi è tutto un gioco di comunicazione. Perché nei fatti è come le province, cioè abbiamo smantellato le province, poi uno va a vedere, le province sono là con tutti i dipendenti e con tutte le funzioni che devono coprire, non ci sono più gli assessori, ma le province ci sono. Quindi credo che viviamo una fase di grande confusione e qualcuno anche di grande manipolazione, insomma, dell'informazione. Lei diceva cambiare rotta, in che termini e per andare dove? Ma guardi, intanto diciamo, l'idea della crescita come risoluzione dei problemi è un'idea sbagliata, perché noi abbiamo avuto anche periodi di crescita in questo paese, avevamo meno disoccupazione, ma per esempio in termini di disuguaglianze sociali era un po' meno, ma c'era, era sostenibile. Allora, poi c'è un nodo di fondo. Tutti gli economisti dell'Ottocento, da Ricardo a Stuart Mill e via dicendo, avevano immaginato che lo sviluppo di una società capitalistica avrebbe raggiunto un punto, così detto, un lago, una forma di stagnazione, per varie ragioni che ora qui non sto a riprendere, sono note. Noi siamo strutturalmente arrivati in una fase nelle società occidentali in cui c'è poco da aspettarsi dalla crescita, nel senso che non è più possibile, anche perché abbiamo nuove potenze emergenti che hanno diritto anche loro a appartenere alla storia, non solo la Cina, il Brasile, l'India, il Sudafrica, tutta l'Africa per esempio ha tassi di crescita in questo periodo del 3, 4, 5%, ma è giusto che sia così, insomma, è normale, è fisiologico. Allora si tratta però della grande ricchezza accumulata di distribuirla diversamente, e così anche a livello di lavoro. Cioè, Keynes, che tutti citano, ma forse pochi conoscono fino in fondo, Keynes diceva una cosa fondamentale, dice, la produttività del lavoro negli anni 30, diceva, fra 100 anni, con questi ritmi di crescita della tecnologia, per cui dove ci volevano prima 10 operai ce ne vuole uno, per esempio nel campo, tutta la meccanica è così, e dice, dobbiamo ridurre l'area di lavoro. Ci diamo 3 ore di lavoro al giorno massimo in modo che lavorino tutti. Ora questo un singolo paese non lo può fare, da qui l'importanza dell'Europa, se funzionasse in un altro modo. Cioè, se noi come europei su alcuni settori, soprattutto quelli protetti dalla concorrenza internazionale, per esempio l'edilizia, ma ce ne sono anche altri, trovassimo un sistema per redistribuire il lavoro anche. È un tabù oggi dire questo, ma noi abbiamo 3 milioni di disoccupati, ma poi c'è la gente che deve fare gli straordinari per arrivare a fine mese. Allora, voglio dire, è inutile aspettarsi questa magica crescita che risolve i problemi, e quando sappiamo che non ci sarà, e se sarà sarà una cosa ridicola, 0,8, un punto percentuale che non cambia strutturalmente le cose, ma invece redistribuiamo la ricchezza, redistribuiamo il lavoro anche, va redistribuito, perché è assurdo, che cosa se ne fa l'umanità dell'aumento della tecnologia se poi non ne ha nessun beneficio? Che deve vedere? I lavoratori devono ritornare ad essere luddisti come all'inizio della rivoluzione industriale, che distruggevano le macchine perché pensavano alle macchine e gli cacciavano il lavoro. Questo secondo me è il nodo di fondo, ma ci vuole una visione politica comune in Europa per arrivare a questo. Comunque noi oggi facciamo ancora purtroppo i conti con dati terribili pubblicati giusto ieri, la giornata di Pasquetta dall'Istat, che ricordava che oltre un milione di famiglie è senza reddito dal lavoro. Il Sud è naturalmente, come di consueto, quello che paga, è quello che soffre maggiormente. Ma per quello un reddito di cittadinanza, cioè il diritto alla vita, un grande antropologo ed economista del secolo scorso si chiama Karl Polanyi, che ha scritto libri, sono tradotti e studiati in tutto il mondo. Lui dice: quando nasce la società di mercato, toglie il diritto alla vita che c'era nelle società precedenti, che erano su un'economia più locale, più di sussistenza, però insomma dava a tutti un minimo vitale. Bisogna riconoscere il minimo vitale per vivere dignitosamente a tutti. Poi il lusso, chi vuole, chi è bravo, chi è capace se lo conquista, ma il diritto alla vita deve essere per tutti. Questo fa una civiltà, questo fa la differenza fra la barbarie e la civiltà, a mio modesto avviso. E quindi questa battaglia, per esempio un milione di famiglie che non ha reddito, non è sostenibile in un mondo che ha accumulato questa ricchezza enorme che c'è, enorme, che se sono le fabbriche piene di scorte di magazzino, di tutti i beni, cose c'è, perché è ricchezza accumulata e non utilizzata. Allora devi cambiare il modello con cui distribuisci la ricchezza, altrimenti non ne usciamo, anzi con la crescita, come scrivono due premi Nobel nordamericani, negli anni 90 e fino alla crisi, negli Stati Uniti c'è stata sì crescita economica, ma c'è stato un periodo lungo di crescita economica drogata con iniezione di liquidità, come c'è attualmente 90 miliardi al mese che introduce la Fed, che a un certo punto porta alla bolla finanziaria, crolla tutto e poi si ricomincia da capo. Cioè siamo in un sistema che ormai è fallito, non funziona più, non ha più una razionalità, non ha più la borsa. Una volta aveva il ruolo di intermediare il risparmio con gli investimenti, oggi invece è totalmente autonoma, totalmente fuori da ogni utilità sociale ma anche economica, anche per chi produce non ha più senso. E prima di Renzi, Berlusconi invece, che naturalmente parlava di flessibilità certamente, ma era convinto che la crescita economica e il rilancio dell'economia passasse anche attraverso le grandi opere. Anche questa è un'altra di queste scuole che di fatto ha fallito. Sì, di fatto, anche perché le grandi opere a partire dal ponte sullo Stretto erano assolutamente insostenibili, non solo sul piano ambientale, anche economico. Lì è stato sul ponte sullo Stretto, qualche volta qualcuno dovrà farne la storia, è stato uno dei più grandi imbrogli del nostro paese, dove si diceva che c'erano i privati. Ma immagini un privato che investe e pensando di recuperare il capitale fra 30 anni, ma chi è? Matusalemme, insomma, cioè che pensa di vivere 900 anni. Ma se no, voglio dire, chiunque abbia dei capitali li va a investire con un ritorno massimo a 5, a 7 anni, a 10, ma non a 30. Che questi erano i tempi per poter fare tutta l'opera, ma così anche con questa. E poi non parliamo insomma di trafori di montagne, come avviene in Val Susa, con asportazioni di amianto e sostanze radioattive. Cioè, non c'è, è come un malato, è un sistema che è un malato terminale e che per tenerlo in vita gli fanno continue trasfusioni di sangue, che poi è il sangue della gente o della natura, insomma, che anche questo oggi è un tema tabù. Ma non solo sono venuti meno diritti fondamentali della persona e del lavoratore, ma i diritti della natura, della tutela, il paesaggio, questo. Pensi solo alle trivellazioni, pensi solo a cosa sta. Questo paese sta diventando un formaggio svizzero. Stanno trivellando dovunque, dalla Calabria all'Emilia Romagna. E ora che i geologi dicono: state attenti nelle zone sismiche, perché abbiamo visto che c'è un aumento dello sciame sismico ogni volta che aumenta un certo tipo di trivellazioni, quindi non tutte, ma alcune, però c'è un problema. Invece niente, no? Che bisogna andare ancora a scavare, ancora a prendere. E hanno tagliato i fondi per le energie rinnovabili, che avevano un grande sviluppo in questo paese. Il nostro paese finalmente, per esempio, l'energia solare, ma anche le imprese italiane buone che producevano pannelli solari, e oggi stanno chiudendo. Insomma, si va al contrario rispetto a quello che sì, sarebbe necessario. Contro ogni logica, capisci? Cioè, non è che bisogna essere di destra e di sinistra, contro ogni logica, chiunque abbia una logica, dice, ma allora che senso ha avuto lo sviluppo economico di tanti anni, l'accumulare tutti questi beni, tutti, per esempio, pensiamo al patrimonio edilizio enorme, però poi sono milioni di stanze chiuse perché non sono né vendute né affittate, ecco che senso ha? Dobbiamo aspettare la crescita per risolverlo? O possiamo dire chi è senza casa, visto che ci sono, lo fece il famoso sindaco di Firenze, no? Lo fece il grande sindaco di Firenze negli anni 50, quando disse... Vabbè, sfumiamo l'audio, visto che in quest'ultima parte usciva un po' da quella che era la questione centrale che ci premeva insomma approfondire in questa puntata, che era quella del Job Act. Torniamo un attimo su una questione che ritornava anche nell'intervista, ovvero quella di quali sono le ricette che vengono proposte oggi per far fronte al problema della disoccupazione, che come ci dicono anche gli ultimi dati Istat ha raggiunto livelli insomma che anche storici molto, molto alti. Sì, insomma, le proposte che escono sono non solo quelle del Job Act, ma a quanto pare anche il Censis, che è il centro studi sugli investimenti sociali, ha detto oggi la sua tramite un articolo sulla stampa. Sì, diciamo, l'articolo titola Giovani, donne e immigrati, ecco l'Italia stanca della crisi, e fa diciamo un lungo spiegone sul come mai questi siano i soggetti su cui puntare per la ripresa. Sicuramente questi sono soggetti su cui puntare per la ripresa, l'abbiamo detto tante volte, la crisi non è neutra, la crisi ha una ricetta particolare per tante quante sono le identità che si possono tracciare, e sicuramente per soggetti come possono essere i giovani, che sono giovani, donne e migranti, che sono estremamente ricattabili, per ovvi motivi, giovani sappiamo che si è disposti un po' a tutto pur di emanciparsi, pur di poter costruire la propria indipendenza, le donne sono inevitabilmente, sappiamo, sono inevitabilmente uno anche dei soggetti ricattabili, in quanto abbiamo visto il Job Act stesso come tratta la maternità, e parla di incoraggiamento alla genitorialità, e poi a suon di contratti a termine si risolve con il problema delle dimissioni in bianco irregolari con dei legalissimi contratti di 5 mesi che non vengono rinnovati sostanzialmente, e ovviamente migranti che hanno un permesso di soggiorno vincolato al lavoro, che hanno tutto l'interesse a non tornare magari da dove sono venuti, perché si sono mossi, un motivo, una scelta è stata fatta, e quindi l'invito da chi sposa questa retorica dello sviluppo, su cui già ci siamo pronunciati, abbiamo visto che l'abbiamo un po' inquadrata come l'abbiamo messa in continuità con quella dell'austerity, ma appunto evidenziando la continuità, ma anche sancendo un po' di differenze, perché di fatto dei passaggi sono stati avvenuti, sono stati fatti, anche il discorso che facevamo in apertura su tagli e sorgere di fondazioni universitarie ci fa vedere un po' qual è lo scenario che si prefigura, quindi quali sono le nuove forme di estrazione di valore dalle capacità umane, un po' ce lo dicono questi provvedimenti che si stanno facendo sempre più concreti, e un po' ce lo dicono anche articoli di questo genere, perché appunto quali sono poi i soggetti da cui estrarre valore con ricette sempre più personalizzate, il Censis stesso a suggerircelo. Sì, rimandiamo all'articolo, purtroppo è visibile solo tramite iscrizione all'articolo completo, comunque il titolo era Giovani, donne e immigrati, ecco l'Italia stanca della crisi, già il titolo appunto abbastanza chiaro negli intenti, anche le prime righe che si leggono appunto li definisce proprio soggetti vitali per questo presunto passaggio dal sacrificio dell'austerity allo sviluppo, che di base poi però si fonda sugli stessi provvedimenti, quindi sullo sfruttamento, sulla ricattabilità, sul creare un mondo del lavoro appunto estremamente diviso e flessibile. Nel frattempo è arrivato anche un altro sms, sempre al 346-667-3263, che commenta un po' l'audio che vi abbiamo fatto ascoltare prima. E dice: il professore non ha pensato che il lavoro non è un mezzo per redistribuire ricchezza, ma per concentrarla. Attraverso il lavoro i capitalisti si arricchiscono e i lavoratori escono da quella situazione precapitalista di autosufficienza alimentare e diritto a vivere di cui parlava. Primo maggio tutto l'anno conclude, sì, ci uniamo a questo augurio e rinnoviamo tra l'altro l'appuntamento per quanto riguarda la nostra città per questo giovedì, consueto appuntamento in Piazza Vittorio dalle ore 9. L'invito ovviamente a insomma a inserirsi nello spezzone sociale, che come ogni anno andrà a portare insomma dei temi differenti rispetto a quello che è diventato tutto il carrozzone del primo maggio, fatto di partiti e sindacati che davvero non hanno più nulla da dire a questa giornata, ma che anzi sono proprio sicuramente parte del problema in tutto il mondo del lavoro. Quindi non solo a Torino ma in diverse piazze italiane questo primo maggio si andrà a segnare una differenza tra queste due parti, quindi insomma staremo un po' a vedere anche quello che sarà l'esito delle varie piazze, però per ora rinnoviamo l'invito appunto alla partecipazione. Sì, assolutamente sì, Torino ha una tradizione, diciamo, rispetto al primo maggio, è sempre stata molto la posizione presa dai movimenti, e chi realmente poi sta nelle lotte sul territorio è sempre stata conflittuale rispetto a questo teatrino. La novità, come diceva Francesca, quest'anno riguarda un po' anche tutte le altre città in cui abbiamo visto sicuramente dalle piazze poi del 12 aprile sono anche uscite queste considerazioni, ma anche da tutto il percorso che diciamo a quella data ha portato e da quella data è ripartito, e che a Roma ci sarà, si andrà a prendere parola nella vetrina, in quella che è la consueta vetrina dei sindacati confederati, che si riempiono sempre la bocca delle loro belle parole e adesso fanno gli sdegnati per questo Job Act che ancora non è proprio come lo vorrebbero, però poi di fatto di intervento concreto non si vede nulla neanche da lontano. Altra piazza molto interessante da seguire sarà sicuramente quella di Milano, invece, la città dell'Expo, la città che in questo momento è la vetrina, è la nuova frontiera del lavoro gratuito. Abbiamo visto che l'Expo, la macchina Expo sta viaggiando sulle spalle del lavoro di migliaia di giovani lavoro volontario. In città vediamo ad ogni vetrina della San Paolo, detentrice formalmente del debito torinese, che infatti la San Paolo si fa partner ufficiale di questo sfruttamento dalle grafiche accattivanti. Andiamo avanti con un po' di musica e poi proseguiamo con la puntata di Parole Ribelli. Parar el tiempo de ser yo mismo, de expresar lo que siento tranquilo, siento bien lo que estoy diciendo. Cuando escribo logro sentirme vivo, logro sentir en mí esa sensación de alivio, y veo como cada frase hace las paces con la que sigue, mientras mi mente consigue lo que escribo y lo que digo, de algún modo conectarlo, y lo sigo atado con las mismas cuerdas con las que hablo. Porque quiero cantar palabras de verdad al mundo, para comunicar mi lento por mi vida, lo hago con música. Rapa pam pam, entre tinta, entre pico, rimas y hojas de papeles, en el underground bocina, rimas y altos decibeles. Nació, creció, no vive, él escucha o la escucha, no sigo en la lucha, razones sobran muchas, gente. Cada cabeza es un mundo diferente. Me distrae de mente por expresar lo que se siente, lo que se quiere, lo que se busca y lo que se encuentra, lo que se pierde, lo malo bueno en el verso se concentra. Yo canto y escribo lo vivido y sus encantos, en la gente, en la tierra, en sonrisas y en sus llantos. Sale desde el pecho y me encuentro satisfecho, pongo mucho triste, alegre, cada sueño es un hecho. Acecho y cada reto lo da resonando. Escribo y rapeo, la mejor paga es el respeto. Sin duda, lo más viene, con añadidura, con los pies en el suelo y la mano en la escritura. escribirme al intento, si no lo hago pero me pudro por dentro, yo tengo canciones en los dedos que fluyen rabiosas en este cuaderno, yo quiero que sean mis canciones, mis signos de guerra, pa' solo hay escuela adentro, tengo paseo afuera, pelea, pelea, daré al sistema. Prefiero el canto al llanto, porque la mala vibra así la expando. Yo que a veces me quedo tanto cuando siento que no aguanto. Canto desde que me levanto y agradezco al universo por acogerme en su manto. Canto que la música es la vida, es energía que vibra, es un verso, una metáfora, una poesía. Porque mi canto es un lamento por nuestra vida, nuestras historias, nuestros tormentos, por nuestros buenos y malos momentos. Esto es tiempo, movimiento, no entretenimiento. Porque quiero cantar, palabras de verdad. Niente qui Allora, a mezzogiorno in questo momento chiudiamo la lunga parentesi su tema lavoro, disoccupazione che abbiamo affrontato prima, ci spostiamo un po' più nello specifico sul mondo dell'università, quello di cui insomma ci occupiamo, che viviamo quotidianamente. Andiamo a commentare un articolo di pochi giorni fa che parla della questione dei tagli, perché a quanto pare, nonostante insomma le promesse sul fatto che fosse finito il tempo dei sacrifici e che l'università dopo anni di tagli selvaggi sarebbe stata risparmiata da questo nuovo governo, a quanto pare invece nella spending review che verrà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale è stato infilato anche qualche insomma taglietto al mondo della formazione, chiaramente rispetto agli interventi ben più drastici che hanno caratterizzato i governi precedenti si tratta di tagli tutto sommato minori, ma comunque si parla di 15 milioni che sulle miserie che sono rimaste a disposizione degli atenei italiani comunque fanno la loro parte. E insomma è interessante notare che c'è stata anche un po' di atriba tra Padoan e il ministro Giannini, che invece sosteneva che insomma si è opposta fino all'ultimo a questo intervento, ma poi proprio non hanno potuto fare altrimenti, insomma il solito teatrino. Ci ricordiamo anche del precedente ministro Carrozza, che invece aveva aperto insomma il suo mandato annunciando questi 150 milioni, alla fine appunto tra un tiramolle e l'altro, tra un cambio di governo e l'altro, i conti non tornano mai per quanto riguarda la formazione. Se c'è da tagliare qualcosa lì, un colpetto lo si dà sempre a quanto pare. Sì, dopo le lacrime di coccodrillo della Fornero, le dichiarazioni della Carrozza, adesso la ribellione della Giannini suona veramente fuori posto in un'università a cui non c'è ormai più nulla da togliere. Infatti ci interessava mettere in relazione questa notizia che, come diceva Francesca, è proprio un sassolino nel mare rispetto alla stagione di Moratti e Gelmini. Soprattutto abbiamo visto appunto quella che è stato poi il taglio e il colpo più grave inferto all'università è quello sicuramente del mandato della Gelmini. Lo scenario attuale invece diciamo è appunto dall'austerità allo sviluppo, dai tagli massicci alle soluzioni concrete, perché vediamo affacciarsi sul territorio questa fondazione Fondo Ricerca e Talenti. www.ricercaetalenti.it per chi fosse curioso, per chi volesse guardare tutte queste belle facce sorridenti di studenti che dicono che vanno in giro con questa enorme monetona da un euro con dei salvadanai e dei cartelli I need education because. Tra parentesi, una piccola nota di colore, mentre prima di andare un po' a mettere a critica questa operazione, questi poveracci ieri e i giorni precedenti, insomma durante tutto il Jazz Festival, non si possono godere i concerti perché vanno in giro con le loro orribili magliettine a riscuotere soldi e con dei salvadanai azzurri a batter cassa in giro. Sono veramente delle scene abbastanza tristi, quindi per chiunque parteciperà a dei concerti probabilmente non mancherà di vederli. Ma torniamo un po' a inquadrare questa fondazione. Ecco, dopo appunto l'università post Gelmini a cui non c'è più nulla da levare, adesso si ristruttura e propone diciamo delle direzioni concrete da prendere. Vediamo che appunto sullo scenario italiano il meccanismo delle fondazioni universitarie non è mai stato uno strumento particolarmente usato, quello del fundraising anche non è del crowdfunding non era diciamo fino adesso un'opzione praticabile per la ricerca. Al massimo appunto ricordiamo la stagione della difesa dell'università pubblica e tutto lo scandalo che suscitava l'entrata di privati dentro l'università, cosa che di fatto poi avviene da tempo ed è formalmente sancita soprattutto a Torino, perché sappiamo gli interessi della San Paolo anche nei meccanismi dell'Ateneo, e infatti proprio da Torino parte questo primo crowdfunding per la ricerca universitaria. Sostanzialmente la musica è un po' trovati i soldi per la tua ricerca, se proprio vuoi fare ricerca, detta un po' pane pane, vino al vino. Adesso la fonte di reddito, diciamo, del lavoratore, da dove arriva, è appannaggio del lavoratore stesso, cioè se non ti arrivano i soldi per il progetto è perché non li hai cercati abbastanza, non sei andato abbastanza in giro col tuo salvadanaietto blu, oppure perché non ci hai creduto tu per primo, che è un po' anche rientra, abbiamo visto in una, cioè guardando, allargando un po' l'occhio, vediamo come categorie tipo quella della disoccupazione volontaria e varie forme più o meno sottili di colpevolizzazione individuale della persona poggiano anche su operazioni di questo genere, perché appunto se sei bravo nel crowdfunding, sorridi abbastanza, sicuramente i soldi per il tuo progetto in qualche modo arrivano. Quindi ci interessava molto mettere in relazione questi due nodi, perché anche come dicevamo in apertura, con una mano si disfa, con l'altra però invece si fa qualcosa di ben preciso. Ricordiamo anche a questo proposito Torino, non solo in questa fondazione ma proprio con il campus, sta diventando un laboratorio molto interessante, sia per chi auspica che la direzione sia questa, sia per noi che invece abbiamo come obiettivo quello di smontarla. Infatti dal 12 al 17 maggio per esempio ci sarà a Cunito. Eh sì, infatti la logica un po' che sta dietro a questa cosa è la stessa, e appunto l'Università di Torino sembra confermarsi un po' questo ruolo di apripista in questo senso, quindi appunto dopo i tagli selvaggi adesso ne usciamo tutti, i soldi ci sono, però ve li dovete trovare voi stessi. E appunto questa è un po' anche la logica che sta dietro a questo grande evento di Acunito, su cui abbiamo insomma già espresso più volte il nostro parere, in cui appunto ognuno presenta i suoi progetti e poi insomma chi avrà le capacità per accaparrarsi una fetta di finanziamento per andare a raccattarli in giro tramite tra l'altro il solito intervento della Compagnia di San Paolo che presiede a questa collaborazione con l'Università di Torino, allora forse se ne farà qualcosa. Quindi davvero il modello che ci propongono è un po' quello del l'essere imprenditori di noi stessi anche nel mondo della formazione, quindi le risorse sono poche, se vuoi andare avanti attrezzati per trovarle. Questa sembra essere un po' la logica che ci propongono e che viene appunto confermata da questo evento di Acunito, da questa notizia che andavamo a commentare adesso, che probabilmente appunto prelude a una direzione più generale degli Atenei italiani in questa nuova fase. E niente, chiudiamo questa parentesi che insomma però ci sembrava interessante da commentare. Vi lasciamo un po' di musica, poi cambiamo argomento per andare a presentarvi un po' di appuntamenti dei prossimi giorni. Sì, andiamo a presentare un po' un modo, quella che vorremmo invece fosse noi l'università, con questa due giorni Metropolis a cura del collettivo universitario autonomo. Il drago potente, intervieni con me, ti renderò felice. Mi sto con lui, che quando passa la gente dice voglio arrivare su. Stare fuori dal tempo tu lo sai, stare in un confine un po' verline, a porte chiuso come il cielo in una stanza compresso. Crescendo la diavolanza, se sei tu di l'estate, se sei martello batti, vieni rizzuppati nella nuca, caramelli da uno conosciuto nella tua coccia fanno buca. Guarda le cose, adesso cerca la dose, pena preghi di gente, questioni di pose, resta sempre come una palletta, caffal 20 mg, scusate vado di fretta, suona rima, naturale criptamina, lucido nel mio spallo, calamiti, ascolta, tutto come fosse la prima volta, con le mani all'insù, perché tu sei menù, dimmi adesso chi fu, se mi sporchi il cielo dipinto di blu, sostanza naturale, zero merda artificiale, porto acqua nel giardino, fumo erbe e bevo vino, inquisitori, inquinatori di sostanze senza scrupoli per la gente, allungano la vita per farti ancora comprare, ne propongono uno stile per non farti più soffrire, eccitanti, narranti, nel mondo catodico, costa nostra, senza armonico, segnale storico. Leggi attentamente l'avvertenza, questo è il castello, tappa al 20 mg, osserva e pensa, il drago che pensi, buche per la strada che ora salti, imprevedibile, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, concentrati, comprimiti, introduzione arteriosa, pensieri senza limiti, non ci fare caso, parole che sfuggono dal controllo labiale, vengono fuori da dentro, per caso, non dal razionale, come soldatini in fuga dalla guerra mondiale, come cellule impazzite di una massa tumorale, la vita, chi se ne frega, chi la disprezza, chi per sempre ogni minuto, ogni secondo non la spreca più, questioni di ritmi, bioritmi, scanditi in controtempo, comunicando con costellazioni abissali, microscopiche, creazioni, prendo la mira, per guardare i miei universi intercostali, un dito, due dita, tre dita, poi una mano, prendila o sfiorala, oppure come un'assassina mo giocaci e amala. Entra e vieni con me, ti renderò felice, leggi attentamente l'avvertenza, questo è il castello, cappa al 20 mg, osserva e pensa, il drago potente, buche per la strada che ora salti, entra e vieni con me. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Arrivano un paio di sms che commentano la notizia di prima, appunto questa istituzione, di questa fondazione ricerca e talenti. Uno che commenta ironicamente unito incubatore di cultura d'impresa, e un altro che riprende appunto la notizia dicendo: quindi se hai gli agganci giusti fai ricerca e lavori, altrimenti cazzi tuoi. Sì, sostanzialmente ha detto in parole povere proprio così. Esattamente. E poi aggiunge: credo si chiami mafia. Insomma, questo per completezza, per andare a leggervi anche un po' i commenti degli ascoltatori rispetto a quanto dicevamo. Poi dipende anche, nel senso, se sei simpatico, magari non hai gli agganci giusti, però con un buon sorriso trovi tutto. Il problema è che se sei nato magari un po' meno, che non hai voglia di andare in piazza con un salvadanaio a sorridere e chiedere l'elemosina, e allora sì, di nuovo sono cazzi tuoi. E niente, vi lasciamo ancora un pezzo musicale prima di proseguire con la puntata. Apre il circa, suonano canzoni quasi malinconiche, suono di frusta e di fisarmonica, cavalli alati con le maschere comiche, elastici alle ali, segregati in gabbie di lacrime ironiche. Le pecore morte nelle une, comandate dai serpenti, colpiscino nel cuore che strisciano fra foglie che riescono a farla franca. Il botteghino fa i biglietti, il pubblico guarda. Luna, terra, sangue, segatura, gli animali in gabbia esplodono di rabbia sotto serratura, il pubblico applaude, la pecora infame che ora pascola, mangia nel circo con le amiche schiave, il pubblico ha paura, il circo punta via il leone, in campo a quattro fuoche che si passano un pallone, è fatto, il pubblico sorride, sembra più felice, anche le macchie di quel sangue sembrano sparite. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua, avresti solo un modo per portarti via. Porterei un mondo senza gravità, senza paura, senza circo, senza la follia. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua, avresti solo un modo per portarti via. Porterei un mondo senza gravità, senza paura, senza stato, senza polizia. Asini stanchi vanno avanti, immaginano il grano, pochi porci che si appuffano, ingrassano piano. Uno spettacolo macabro, sappiamo che nell'anima del circo è un sistema umano. Trampoli ripassano, alti come un faro, sembrano giganti. Sembra che tocchino il cielo con una mano, hanno diamanti addosso e salzano, compensano pazienza. Ma la felicità non è un fatto d'altezza, tutto gira intorno nella falsità di un gioco. giorno nel circo, un pappagallo che ripete ciò che gli hanno scritto, delle pecore che è morto nei leoni, giudici buoni, un pubblico di fiori, che guarda sta zitto e tutto ricadrito, anche troppo nella sua stortezza, io che volo, parto dall'alto, mi fa tristezza, anche se provo a urlare qua nessuno sa sta lingua, solo chi già vola non può fare, ma domani ricomincia il circo. Ci fosse solo un posto me ne andrei di qua, avessi solo un modo per portarti via, porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza circo, senza la follia. Ci fosse solo un posto me ne andrei di qua, avessi solo un modo per portarti via, porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza stato, senza polizia. Allora, entrando un po' in tema di appuntamenti, ricordiamo la Due Giorni di Metropolis, l'iniziativa che da alcuni anni come collettivo universitario autonomo proponiamo durante l'anno appunto all'interno dell'università per appunto creare degli spazi anche di per vivere l'università in modo differente, solitamente appunto un appuntamento che creiamo a inizio anno, ma che abbiamo deciso di ripetere anche in vista appunto della giornata del primo maggio, perché anche l'università appunto sia un terreno di accumulo di forze in vista non solo del corteo di giovedì ma dei prossimi appuntamenti di lotta, guardando ovviamente avanti anche all'11 luglio. Quindi si inizia oggi tra non molto con l'appuntamento con il pranzo popolare, anche il tempo sembra essere dalla nostra parte, quindi appuntamento insomma sulla balconata di Palazzo Nuovo per il pranzo a partire dall'1, poi per tutto il giorno ci sarà un'esposizione di mostre, fotografie e locandine appunto sul tema del primo maggio, ma non solo. Poi andremo avanti anche domani, e domani entriamo anche un po' nel vivo dei contenuti di questa Due Giorni universitaria, e cominceremo con una discussione sul Job Act. Una discussione sul Job Act che ci vedrà un po' condividere le riflessioni fatte come collettivo, ma anche appunto proporre alcune delle domande che, a cui ovviamente non abbiamo trovato una risposta certa, ma che stiamo continuando a portare avanti, ovvero qual è poi, oltre appunto a un aggiornamento su quelle che sono le norme già entrate in vigore con il teatrino di modifiche di cui abbiamo parlato in apertura di puntata, ma anche e soprattutto in che contesto si inserisce questo Job Act. Chi, a partire anche un po' diciamo la sua gamba mediatica nella figura di Renzi, il rottamatore, il giovane, quello che poi dovrebbe essere, diciamo dovrebbe guardare il mondo dal nostro stesso punto di vista, a cui ovviamente noi non abbiamo nulla a che spartire. Quindi in che contesto si inserisce questo provvedimento, qual è l'orizzonte anche oltre i confini italiani, qual è la specificità italiana nel momento in cui appunto si applicano quelli che sono concetti vuoti come quello della flessibilità, che devono poi hanno sfaccettature diverse a seconda del contesto a cui fanno riferimento, o direttive come quella sulla ristrutturazione degli ammortizzatori sociali, piuttosto che cosa può comportare anche l'ennesima iniezione di l'ennesima flebo finanziaria che probabilmente arriverà all'Italia in vista di questo vertice sull'occupazione giovanile, quindi verso un primo maggio di lotta e verso un 11 luglio conflittuale. E andremo avanti poi dopo la discussione sul Job Act con sperando che sia stata proficua e interessante, e quindi comunque anche sempre pesante come sono tutte le discussioni che richiedono un po' di concentrazione, andremo a rilassarci e a condividere un momento di socialità e di, speriamo, divertimento con un aperitivo musicale. E quindi niente, rimandiamo ovviamente ai contatti per trovare l'evento, tutte le informazioni del caso. Cercate la pagina Facebook Collettivo Universitario Autonomo Torino, andate sul blog qa-torino.blogspot.it. Quindi niente, ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi a partire dalle 13. Adesso vi lasciamo un po' di musica, poi ci spostiamo sul tema Notav per l'ultimo approfondimento. Iniziamo a parlare della giornata del primo maggio, scusate, del 10 maggio. Proprio il microfono nella diva, c'è bello acceso, c'è spento, esplode su bomba. Non si chiama milizia, servizia, colpi in faccia, morti in piazza, e sappiano la notizia. Se c'è di fumo ipnotizza, non respiro se l'aria mi vizia. Mentre fanno il cestino, la ruota di un'ingiustizia. La massa non realizza, si uniformizza, si anestetizza col video, la sua immondizia. Passa la curva sulla scissa, con cui mister mi analizza. Io sull'obiettivo spiego la scissa, ho un'identità fittizia sulla tua mentale. Sto dalla parte del criminale, se non siete al criminale, sputo sul Quirinale, comunico il cardinale, comunico il slang illegale, perché non si arrende al male, guai nella katana, fuma, dama, spingo il sangue al prima dama, tutta urbana la trama del drama. Oggi è nel serbatoio, testa di cuoio. Già, noi generazione post-PR, figli della bomba. Poi, generazione di PR, figli della palla. In strada, sbirri e t'attacca, guerriglia, ferro più franca. Ci in divisa, la squadra della uno bianca. La gente stanca, il fuoco nei carbonizza al tanto. Cresce col sangue, vuole il piombo come nei 70. Lotta di classe, tra figli e masse, la rivoluzione amplificata dalle vostre casse. Killer, gioco argentino dal tuo subwoofer. Vivo se scrivo, giro clandestino sulla Mini Cooper. A Milano, giustizia come va bene, ogni infame assassino, non scritto fedele al dovere. Fra, dalle galere alle botte nelle pantere, come misera la vita negli abusi di potere. Con rimenate tra bottiglie sfasciate, su coordinate pivotate, se il primo non ricorda alla piena me, ne prepariamo fuga, mezzanotte è la fase nerd, di mistifica, mistica, alla missione lirica, il microfono spara, fagli perizia malissima, con le forze del disordine, il suono ultraviolento dentro l'etere, il fuoco divampa, non lo puoi spegnere, la resa non è la mia cosa, no justice, non piccami da presa, con la stoffa che pesa, il mio stato mentale non si piega, non fa media in media, trasforma merda in oro, come Remita. Io non ci credo, nemmeno. Siamo il colpo in canna, col caricatore pieno. Guarda la vita fra, va bene un attimo. Il mondo va a puttane, cane mangia cane. Io mangio per ultimo. E 23, anche per questa settimana ci avviamo verso la conclusione di Parole Ribelli. Vi proponiamo un ultimo approfondimento, che abbiamo argomento rispetto a quanto abbiamo affrontato prima. Passiamo a parlare di Notav. Già durante l'info di questa mattina si è discusso di questa inchiesta che è uscita in questi giorni, che riguarda il pubblico ministero Rinaudo, un'inchiesta che arriva tra l'altro a pochi giorni dalla manifestazione del 10 maggio, che è stata lanciata appunto come marcia del movimento Notav, col titolo Colpevoli di resistere, che andrà ancora una volta a stringersi attorno a quanti stanno pagando con la propria libertà il proprio essere protagonista all'interno della lotta no TAV, e in particolare andrà insomma a contrastare questa accusa di terrorismo che evidentemente è gravissima, dai risvolti potenzialmente molto pesanti, su cui tra l'altro anche la Cassazione dovrà esprimersi nelle prossime settimane. Insomma, staremo a vedere, perché comunque darà un'indicazione importante anche nei termini della giurisprudenza rispetto a questa accusa. Quello che ci interessa però, appunto, iniziare a parlare di questa mobilitazione del 10 maggio lo facciamo con Erika del Comitato Giovani No TAV, che dovremmo avere a questi microfoni, che salutiamo e ringraziamo. Erika, ciao, ci senti? Tutti. Ok, sì, sì. Un saluto a te. Allora, con te vorremmo appunto iniziare a parlare un po' di questa data. Sappiamo che come studenti della Valle di Susa, che quindi vivono quotidianamente quella che è la realtà della lotta No TAV e anche tutti i suoi risvolti sul territorio, state iniziando a lavorare in vista di questo corteo e che a breve farete uscire un appello, quindi ti lascio un po' la parola per presentarci il vostro lavoro. Sì, come Comitato Giovani abbiamo appunto fatto questo appello, che sta già girando nelle scuole di tutta Italia, nei collettivi di tutta Italia, ed è insomma una richiesta insomma, di partecipazione, di solidarietà a questi quattro ragazzi, appunto partecipazione al corteo del 10 maggio. Perché è importante questo appello secondo noi? Perché è un po' una forma di anche controinformazione a tutti questi attacco mediatico, questo clima che si sta creando mediaticamente di terrore, appunto, perché ricordiamo anche per esempio le ultime notizie, la scorta a tutti, alla giuria del processo del 22, tutte queste notizie che fanno insomma che creano questo clima, e noi abbiamo fatto questo appello per appunto far vedere quanti studenti, quanti giovani sono disposti a scendere in piazza e gridare la loro solidarietà a questi ragazzi e l'opposizione all'opera, nonostante appunto tutte queste provocazioni sia da parte della stampa sia da parte anche della procura, queste minacce, come è successo, perché insomma hanno accusato questi quattro ragazzi di terrorismo, però in realtà accusando questi quattro ragazzi si vuole in qualche modo cercare di intimorire il movimento No TAV, e questo non accadrà, insomma. Essendo anche noi giovani come Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, che hanno lottato per difendere questo territorio e per difendere quello in cui credevano, abbiamo deciso di creare questo appello e di scendere in piazza anche facendo uno spezzone studentesco. Beh, sicuramente le ragioni della vostra presenza sono molto chiare, e soprattutto anche un po' collegandoci ai discorsi un po' più ampi che facevamo in puntata, abbiamo visto come soggetti da cui estrarre valore in nuovo modo ci sono migranti, donne e giovani, e che il discorso di questo governo, il cui premier fa parte del partito partigiano della TAV da sempre, si riempie molto la bocca. Bene, Erika, volevamo chiederti un po' anche, sappiamo che la Val Susa in ogni città non è solo uno slogan, e sappiamo che la questione del TAV riguarda tutti e tutte, perché pone direttamente la domanda del chi decide e a chi appartengono le risorse dei nostri territori. Vuoi, se l'appello ha già cominciato a girare, vuoi darci un po' una panoramica su qual è stata la risposta che avete riscontrato, anche magari da studenti fuori da un circuito di collettivi che può essere un po' più sulla cui adesione si può un po' più contare? Sì, allora noi adesso abbiamo fatto partire questo appello, abbiamo insomma, diciamo, iniziato a farlo girare, abbiamo già 25 firme di collettivi, tra cui bisogna aggiungere anche tutte le scuole di Palermo, perché abbiamo ricevuto l'adesione del coordinamento intero degli studenti di Palermo, del coordinamento degli studenti di Napoli, quindi tutte le scuole di Napoli, di Palermo, poi non so, della Val Camonica, fino a Fano, nelle Marche, a Olbia, non so, ce ne sono veramente tantissime, Brescia, Pisa, Ravenna, Bologna, Modena, tutti, insomma, gli studenti hanno risposto con entusiasmo a questo appello e appunto stanno facendo girare nelle scuole, che purtroppo adesso non abbiamo potuto fare un notar tour come giovani, così per mancanza di tempo, però appunto con questo appello si riesce anche a entrare nelle scuole, a diffondere diciamo le nostre idee, le nostre motivazioni anche. Beh, quindi diciamo che il vostro, possiamo dire che ad oggi, in maniera ancora sicuramente prematura, il vostro bilancio è positivo e che la questione TAV è sentita dagli studenti. Anche e soprattutto perché un discorso che voi avete sempre fatto, diciamo, da dentro una scuola che non ha una scala antincendio, con le pareti che si scrostano e la mancanza di tutta una serie di servizi, ecco, sembra, risulta, salta all'occhio in maniera abbastanza evidente l'incongruenza dello scegliere di mettere così tanti soldi, così tanti miliardi in un progetto come quello della TAV. Sì, certo, ma oltre alla questione di scuole fatiscenti e di altre cose, cioè si vede proprio la partecipazione degli studenti, anche perché non si vede, anche come giovani penso, un futuro sicuro, però per mancanza di fondi, per mancanza di soldi, ma in qualsiasi ambito, quindi non solo nella scuola, ma gli studenti sentono anche molto la questione anche della sanità, del lavoro stesso che dopo la scuola tanti non riescono a trovare, e poi si vedono questi progetti di miliardi di euro che cercano di venire attuati in Valsusa, e quindi insomma la rabbia degli studenti è molta e quindi sono, diciamo, i primi a aderire a queste iniziative sempre. Va bene, Erika, sei stata molto chiara, noi ti ringraziamo per aver iniziato, insomma, a discutere con noi di questa data. Sicuramente nella prossima puntata ne parleremo ancora, per adesso rilanciamo appunto l'appuntamento in piazza per il 10 maggio e anche sui siti, insomma, del movimento, in primis nota.info, per trovare nei prossimi giorni l'appello che avete scritto. Noi ti ringraziamo, ci vedremo sicuramente in piazza il 10 maggio. Per ora ti ringraziamo per questa diretta. Grazie mille. Ciao, un saluto. Ciao. E abbiamo fatto le 12:31, quindi vi lasciamo a un brevissimo stacco musicale, poi come di consueto andiamo a leggere qualche appuntamento prima della chiusura e del passaggio di microfoni al giornale radio. Faccio rap effetto dalle retrovie, sopra melodie, su un suono elettro con parole mie. Due file dietro l'avanguardia, sicuro non se sbaglia, semo l'asso nella manica in battaglia. Copro il silenzio con l'arcore, la fanteria si muove di nascosto nella notte quando piove, col sussurro delle nostre suole. Teniamo il ritmo nella mente, cercando le parole per le nostre storie. La storia è scritta con il sangue, io scrivo le mie rime col calore della gente, mia falange. La prima fila spinge, chi sta dietro stende l'anima. Con il sole che ci bacia sulle guance sul palco come alle termopili, in 5 contro 1000 stronzi, casse rotte, sempre fermi immobili, i tuoi attacchi vanno a vuoto sempre, perché sul palco non c'è trucco, e se capisce se non vali niente, non è codice e spacca ossa, intorno al disco le transenne, da destra in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la dito mossa, pensando su di manganelli, soltanto con il rap, è roba nostra, non è codice e spacca ossa, intorno al disco le transenne, da destra questo posto è zona rossa, sopra il palco con l'antico mossa, pensando su e manganelli, soltanto con il rap che è roba nostra, la Sicilia nell'oscurità, nel mirino del cecchino ci sta rap, tra la sua dignità, ma la mia squadra agisce come un uomo solo, e il povero cecchino manco fa rumore quando cade al suolo, attestati tutti i giorni solo a questo, sempre lo stesso gesto, sempre lo stesso gesto, sempre lo stesso gesto, fino a quando non diventerà perfetto, pazienza, pratica, allenamento, sopra il tempo. attacco. Rallento il mio respiro per ridurre il battito. In addestramento tattico attuo questo schema classico, adatto per fare sta roba. Silenzioso come in cobra, metto il plastico sotto a sto rap che va de moda. In prima fila non si arretra mai, che siano botte de mortaio, calci de poi dai. Vai, vai, se calo forte, Giappone contro le Hawaii, pronto alla morte. Se fratello tu chiama me samurai, non è codice e spacca ossa. Intorno al disco le transenne, da destra un po' sto posto in zona rossa. Sopra il palco con la viso mossa, pensando su di Marganelli, soltanto con il rap è roba nostra. Non è codice e spacca ossa. Intorno al disco le transenne, da destra un po' sto posto in zona rossa. Sopra il palco con la viso mossa, pensando su di Marganelli, soltanto con il rap è roba nostra. Ciao, sono Morte Cattiva e quando lascio il campo... 12.34 ai microfoni di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in conclusione di puntata, cominciamo a dare gli appuntamenti come di consueto. Domani sera concerto benefit per Radio Blackout a El Paso in via Passobole 47. Dalle ore 23 suoneranno i Maria Violenza, Arabian Punk Roma, Vernon, Garage Soul Torino Roma e The Reapers, Garage Punk Cagliari. A seguire The Psychedelic Sugar Cube Night, Sexy Sound and Light Show by Ricky Yokonaut e Giampo. Spero di non aver letto male nulla. Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia senti mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante con il mio passo di elefante. E per quanto riguarda la rubrica radiofonica mezz'ora prima del blackout, l'appuntamento di domattina a partire dalle 8 e con la rubrica con gli insorti Max Aliti nel cuore della foresta indiana, prima parte, quindi ci sarà poi immagino una seconda puntata. Comunque domattina a partire dalle 8 l'appuntamento con la mezz'ora prima del blackout. Quanto sono brutti, io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere in minoranza, mi sento strano alle menzogne della maggioranza. E sempre mercoledì 30, lungo il filo della lotta, alle ore 18, presidio in solidarietà a Claudio, Chiara, Mattia e Nicolò, dalle ore 15, in corso Giulio Cesare, angolo via Lauro Rossi. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti fini. Arriviamo al primo maggio, oltre al già ricordato appuntamento in piazza a partire dalle 9 con lo spezzone sociale, ricordiamo il secondo appuntamento con Giorni Irreali, questa due giorni iniziata il 25 aprile con controinformazione, musica e concerti, tutto benefit, spese legali per il movimento Notave per Radio Blackout. Per quanto riguarda appunto giovedì dalle 13 fino a tarda sera ai Giardini Irreali ci sarà appunto concerto, griglia, presentazione di libri e altro. Il programma completo lo trovate all'indirizzo giorniirreali.noblogs.org e ricordiamo che in caso di pioggia, come è già stato appunto per il 25 aprile, il tutto si sposterà a Parco Dora in Corso Mortara. Pianzino, era un falegname nel suo casolare, a chi faceva del male, come lui dice gente che non è che da compagni, questa gente che io voglio come compagni, come la forza del suo controllo di potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere, e quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova. E a proposito di Job Act, Renzi e modelli virtuosi secondo lui, ricordiamo che a Italy si lavora 365 giorni l'anno, anche il primo maggio per 800 euro al mese. Il precariato è la norma sui banchi dove Renzi festeggia i suoi successi. Qui in ovviamente facendo un passo indietro ci siamo scordati l'appuntamento di questa sera, come ogni martedì, appuntamento all'asilo per la cena benefit detenuti. Dove sta? La trovi nella mappa, oresti tra la gente distratta, la città ogni giorno si rinnova, ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova. E in ultimo ricordiamo oggi e domani Metropoli, la due giorni universitaria a cura del collettivo universitario autonomo. Sulle libere frequenze di Radio Blackout, Parole Ribelli va a concludersi. Come sempre vi aspetta martedì prossimo dalle 10.45 alle 12.45. Un saluto a tutti e tutte da Eddie. Un saluto da Francesca, rimanete sintonizzati sui 105.250, tra pochissimo il GR di Blackout, quindi buon ascolto, vi lasciamo un ultimo pezzo della nostra selezione mentre Maurizio si prepara ai microfoni. Un saluto e buona giornata, a risentirci martedì prossimo.